questo mondo solo te. Ah, come Martina, ah, come amore, scappa via con me da questo mondo che è buio senza te. Ah, come Martina, ah, come amore, vola insieme a me in questo mondo attorno a te. Ah, come Martina, ah, come amore, scappa via con me da questo mondo che è buio senza te. Ci rivivrà quest'amore forte. Alla mia un amore dato, brucia mio il cuore ammalato, strazia mio e si affanato. Non fa per me questo posto buio, illumina queste labbra dolci, rivivrà quest'amore forte. Ah, come Martina, ah, come amore, gioca insieme a me questo mondo solo te. Ah, come Martina, ah, come buio senza te.